Salario ottimo, perfetto per il capitale. Salario ottimo, perfetto per il capitale. Lavoro misurato all'immediata durata. Lavoro misurato all'immediata durata. L'opera stessa controlla la qualità. L'opera stessa controlla la qualità. Fonte feconda di detrazioni sul salario. Fonte feconda di detrazioni sul salario. L'operaio non possiede capacità, viene eliminato. L'operaio non possiede capacità, viene eliminato. La sorveglianza è superflua, la sorveglianza è superflua, gettando base del lavoro domestico. I parassiti si inseriscono, gettando basi del lavoro domestico. I parassiti si inseriscono. Operaio sfrutta operaio, operaio sfrutta operaio. Bam bam bam bam bam bam bam.